Innanzitutto vorremmo ringraziare le organizzatrici e gli organizzatori dell'incontro per averci invitato qui. Bueno, antes de empezar a traducir lo que ella acaba de decir, pues si no se entiende algo por la traducción o lo que sea, no tengáis dudas en pararme, intento explicarme mejor o lo que sea. Pues gracias a todas por habernos invitado aquí. Il nostro dibattito è sulla riproduzione artificiale. Esta charla será alrededor de la reproducción artificial. El mio intervento cerca di mostrare il filo che lega la zootecnia alla riproduzione artificiale umana. En su parte intenta demostrar el hilo conductor que hay entre la reproducción artificial de los animales y la reproducción artificial de los humanos. Nella scienza medica la riproduzione artificiale è stata utilizzata e viene utilizzata come cura per la sterilità. En la ciencia médica la reproducción artificial se usa como cura para la esterilidad. Ma non solo. Mentre per la zootecnia l'utilizzo della riproduzione artificiale è utilizzato per migliorare le caratteristiche degli animali da reddito. Sin embargo, en la zootecnia la riproduzione artificiale se usa per migliorare le caratteristiche degli animali di cria. Adesso farò una breve storia di quello che è la riproduzione artificiale in zootecnia. Ahora hará un pequeño relato de lo que es la historia de la reproducción artificial en la zootecnia. Con il termine inseminazione artificiale innanzitutto si intende la tecnica che permette di introdurre lo sperma all'interno dell'apparato riproduttivo femminile. Con inseminazione artificiale se quiere decir una tecnica che permette di introdurre spermatozoides dentro dell'apparato riproduttivo femminile. Non si tratta di una fecondazione in vitro, ma si tratta di favorire l'incontro tra ovocita e spermatozoide. No, non è fecondazione in vitro, sino è intentar favorecer che si puedan unir los ovocitos y los spermatozoides. In zootecnia l'inseminazione strumentale, cioè artificiale, è la tecnica che l'uomo utilizza per la fecondazione artificiale degli animali di allevamento. En zootecnia la inseminación artificial es la técnica que el ser humano usa para practicar la fecundación artificial en los animales de cría. Viene utilizada para mejorar algunas características de los animales de cría. Y se usa específicamente para mejorar algunas características de los animales de cría. Quindi, il primo esperimento di inseminazione artificiale è stato condotto nel 1778 ed è stato la riproduzione di cagne inseminata artificialmente una cagna che ha ottenuto una cucciolata. Il primo esperimento di inseminazione artificiale si è realizzato nel 1778 y usaban una perra para producir artificialmente, o sea, con una inseminación artificial, una camada. Y este es el primer experimento que se inserisce all'interno de una tradición de intervento en la reproducción animal que ha portado en el 1952 al primer concepimiento de un vitello artificial. Este experimento está dentro de una larga tradición de intervención humana dentro de la reproducción de los animales que llega en 1952 a la concepción del primer ternero artificial. La reproducción artificial, por cuanto riguarda la zootecnia, ha cambiado, es stato veramente un paso per quanto riguarda un cambiamento per quello che riguarda l'allevamento. La tecnología de la inseminación artificial ha sido un verdadero cambio para lo que es la técnica de la cría. Porque mientras prima el allevamiento tradicional prevedeva que el humano si rapportasse al tiempo natural, quindi alla riproduzione naturale degli animali, Si antes en la ganadería el ser humano tenía que adecuarse a los tiempos de los animales, adesso la riproduzione è diventata un incontro tra elementi biologici e le tecnologie che vengono utilizzate per l'inseminazione. Ora la riproduzione non è más che un incontro entre fattori biologici e tecniche artificiali di riproduzione. Un altro elemento che è stato un passo avanti è la crioconservazione. Otro paso hacia adelante fue la crioconservación, que ha veramente ha portado al incremento del utilizo y a las posibilidades que estas técnicas han que ha hecho desarrollar un montón estas técnicas y las posibilidades efectivas que crean. Porque por cuanto riguarda appunto la inseminación artificial, attraverso la crioconservazione lo sperma può essere mantenuto fresco per più tempo. Perché los espermatozoides si pueden conservar para un tiempo más largo. E quindi viene ridotta anche le distanze geografiche che ci possono essere tra il riproduttore che dà lo sperma e la femmina che da inseminare. E si pueden reducir también las distancias, por ejemplo, geográficas entre el reproductor que da el esperma y la hembra que tiene que ser inseminada artificialmente. Quindi paradossalmente con lo sperma di un solo individuo maschio si possono fecondare più femmine a distanza dalle altre. Paradossalmente con el esperma de un solo macho se pueden fecundar muchas hembras que viven a distancias geográficas considerables. E questo ha portato a un importante sviluppo economico. Esto ha llevado consigo un desarrollo economico importante. Per il fatto che gli allevatori hanno avuto la possibilità di ridurre, cioè eliminare i maschi, mantenendo più femmine. E los ganaderos han podido eliminar los machos y creando más hembras. E garantendosi una qualità di sperma e quindi di materiale genetico migliore. E garantizzandosi una quantità más grande e mejor di sperma. Grazie alla scelta di riproduttori selezionati con determinate caratteristiche. Eligiendo e selezionando i riproduttori in base a determinate caratteristiche. Caratteristiche che ovviamente rispondevano a un bisogno economico, quindi per sfruttare al meglio le caratteristiche di un certo individuo piuttosto che altro. Por supuesto, estas características corresponden a necesidades económicas y nada más. La scelta dei riproduttori si basa principalmente sulla l'intenzione di migliorare la carne o i prodotti da la quantità di latte prodotto e così via. Por ejemplo, se eligen reproductores específicos para mejorar la calidad de la carne o la calidad de la leche de los animales de cría. I controlli sanitari che vengono fatti per quanto riguarda i riproduttori sono molti e questo è una sorta di garanzia per gli allevatori perché si assicurano un prodotto di qualità. A través de controles sanitarios, que son muchos, los productores, los ganaderos se garantizan un producto mejor. Quindi gli animali rinchiusi diventano strumenti, diventano contenitori di materiale genetico di buona o cattiva qualità da utilizzare. Los animales encerrados son contenedores de productos de buena calidad que explotar. E quindi sono le parole d'ordine per questo sfruttamento di risorse, estrarre materie prime, sono il controllo, la selezione e la produttività. Las palabras claves de todo este proceso son Control, selección y productividad. Controllo perché vengono appunto selezionati i soggetti migliori per garantire un soggetto, una discendenza con un migliore materiale genetico. Control perché se seleccionan sujetos mejores para garantizar una descendencia de la especie con un migliore soggetto migliore. Con un materiale genetico migliore. Selezione perché appunto vengono selezionati i soggetti più adatti. Selección porque se seleccionan los sujetos más adaptos para este proceso. Con determinadas características. Con características determinadas, eso. E produttività perché appunto la scelta dei poteri produttori e la scelta delle caratteristiche che auspicabili nelle discendenze sono appunto legate al commercio, quindi al sfruttare al meglio le caratteristiche di un certo genere. Y productividad perché la elección de las características que seleccionar siguen la necesidad de explotar comercialmente estas mismas características. Ogni avanzamento di questo processo tecnologico porta con sé l'aumento di norme e di controllo che lo Stato estende la sua influenza sugli agricoltori. Cada avance en este proceso tecnológico lleva consigo un aumento de las normas del Estado que de esta manera puede aumentar el control sobre la ganadería. Infatti già dalla seconda guerra mondiale in poi sono aumentate talmente tanto le norme di controllo che adesso da semplice proposta, quindi possibilità di selezionare o meno determinate caratteristiche per quanto riguarda la riproduzione degli animali da reddito, è diventata sempre meno una possibilità di scelta e sempre più imposta. Desde la fin de la Segunda Guerra Mundial, las normas han aumentado tanto que ya no es una cuestión de elección para el ganadero de usar estas técnicas de reproducción, sino que es algo que es impuesto a través de todas estas normas para garantizar la qualità del prodotto. Per quanto riguarda la riproduzione umana, invece, dato che queste tecniche, qualsiasi tecnologia, una volta che viene sviluppata, una volta che viene introdotta, poi viene utilizzata e trova sempre maggiore utilizzo e possibilità di utilizzo. Cada vez che si desarrolla una tecnologia che esiste, che è possibile utilizzarla, pues su utilizo irá expandiéndose a otros ámbitos también, como puede ser en este caso lo de la reproducción humana. De la reproducción humana si è partiti dal voler rispondere alla necessità o al bisogno indotto di avere discendenza a persone che appunto vengono diagnosticate come esteri, quindi senza la possibilità di avere. Se empezó con la excusa de hacer frente a la necesidad, muchas veces una necesidad inducida por el sistema, de personas estériles, diagnosticadas como estériles, a poder tener hijos y hijas. Okay. Y por cuanto riguarda la reproducción artificial humana, si parla di PMA, cioè la procreación medicalmente asistida. En el caso de la reproducción artificial humana se habla de procreación asistida. Con la cual se intende todos los tratamientos para la fertilidad que portan al encuentro entre gametos femeninos y masculinos. Con la cual se entiende todos los tipos de tratamientos que hacen aumentar la posibilidad de encuentro entre los gametos masculinos y femeninos. All'interno delle tecniche di PMA rientra la GPA, cioè la gestazione per altri. Dentro de estas técnicas entra también la gestación para para otros, o sea, la, el útero en alquiler. Per cui una donna portatrice porta avanti fino al parto la gestazione di un figlio per un'altra persona, per i coppie. In questa tecnica una mujer, una madre gestante, lleva il suo regazo una hija para otras personas. Si può utilizzare la, l'ovulo della, della coppia committente oppure di un'altra donna donatrice. Si può usare los óvulos della pareja, che sarà luego los padres della hija che nace, o óvulos donados por otras mujeres. Ho utilizzato il termine donatrice perché è il termine che viene utilizzato per quanto riguarda la femmina. Nell'ambito della procreazione assistita si usa il termine, la parola donadora, donar è una parola che si usa in questo ambito. Proprio per mostrare un aspetto di gratuità e di altruismo che le persone che donano, che appunto che vendono gli ovuli, in realtà hanno. Utilizzano, si intende mostrare appunto uno spirito di gratuità, quando in realtà non si tratta di gratuità, ma quanto una vera e propria vendita. Cioè, usano questa parola, questa parola, donar, donadora, per insegnare come un stile gratuito di questa tecnica, quando in realtà non si tratta sino di una venta de los óvulos. Donatrici e donatori di ovuli e sperma, infatti non vengono considerati come dei venditori di materiale biologico, quanto donatori che ricevono un compenso. No se, estas personas que donan óvulos o esperma no se consideran, o sea, no se habla de ellas como personas que venden su esperma o sus óvulos, sino como personas que donan con pagadas estos óvulos. Al pari degli animali da reddito, in cui ci sono certe caratteristiche che sono considerate auspicabili e quindi riproducibili, anche nella riproduzione umana artificiale ci sono delle caratteristiche che sono considerate migliori di altre, e quindi selezionate. Come nella riproduzione artificiale degli animali di cria, pues también en la humana. Hay características que son auspicables y que se quiere reproducir. Una buena donatrice o un buon donatore, oltre appunto ad essere fertile, viene selezionato in base a caratteristiche psicologiche, fisiche, di livello di studio, quindi culturali. Una buena donadora, pues, además que tiene que ser fértil, pues también viene è selezionata in base a caratteristiche psicologiche, fisiche, di studio, di etnia anche. Proprio perché, per quanto riguarda soprattutto la GPA, quindi la compravendita di materiale biologico, vi sono dei veri e propri cataloghi all'interno dei quali si può selezionare le caratteristiche desiderate, quindi costruire una bambina perfetta. Para lo que concierne la gestación por sustitución, o sea, el vientre de alquiler, existen catálogos en que se pueden elegir las donadoras para llegar, o sea, para tener luego en el futuro una niña perfecta. Ma la ricerca non si ferma soltanto alla scelta dei candidati migliori per la riproduzione, ma attraverso la diagnosi preimpianto è in grado anche di selezionare l'embrione con le migliori caratteristiche genetiche e quindi il più adatto alla vita. Però il processo della riproduzione artificiale non si basa solo nella selezione dei candidati come donatori migliori, sino también se basa en el diagnóstico genético preimplantacional, o sea, en la selección de los mismos embriones para que sean los mejores posibles. Partiendo con la idea de voler identificare preventivamente delle possibili malattie geneticamente trasmissibili, quindi evitare la nascita di bambini con malattie genetiche. E sto, la scusa è che si può diagnosticare con antelación possibili enfermedades genéticas dentro del, cioè si usa questo diagnostico genetico preimplantazionale per diagnosticare enfermedades genéticas e evitare che la niña che nascerà a través della fecundazione in vitro luego tendrà alcune enfermedades genéticas. Ma con questa tecnologia e con lo sviluppo di questa tecnologia è sempre si può andare sempre oltre e quindi in alcuni stati, per esempio, è possibile selezionare il sesso della bambina o del bambino, caratteristiche fisiche, appunto costruendo la bambina perfetta, la bambina su misura. En algunos estados se puede ir más allá que esto, o sea, más allá de el diagnóstico de enfermedades genéticas. Se puede seleccionar el embrión en base al sexo, a características físicas, y eso significa poder seleccionar una niña medida. La diagnosi di impianto è utilizzata, o comunque si vorrebbe, utilizzata da alcuni grandi allevatori per selezionare il più possibile gli animali da rete. El diagnóstico genético preimplantacional se usa también en la ganadería, en la grande ganadería, para seleccionar los mejores animales de cría. Es una práctica ancora poco utilizzata perché molto costosa, ma che permette di selezionare ancora meglio gli animali da allevare. Quindi si può selezionare o si vuole selezionare il sesso proprio per avere il candidato più adatto in base alle esigenze dell'allevatore. È una tecnica che nella ganaderia todavía si usa poco perché todavía es muy costosa, però permette selezionare muchas características, por ejemplo el sexo, y esto claro da aiuta mucho a nivel económico, o sea, tiene un osservando quello che succede per quanto riguarda la zootecnia e per quanto riguarda la riproduzione umana, si può vedere come il retroterra e la prospettiva eugenetica sia presente. E nel caso della zootecnia, come también della riproduzione umana, si può vedere che este ambito entra perfettamente dentro della eugenetica. I corpi diventano quindi appunto dei contenitori di materiale biologico da estrarre, da manipolare, da scegliere e selezionare in base alle caratteristiche economiche e del momento. A través de la eugenética los cuerpos se hacen contenedores de material biológico que se puede extraer, manipular, elegir, seleccionar en la base de las características que más se necesitan a nivel económico. Obviamente, appunto, essendo una tecnologia e una volta che viene inserita all'interno della nostra società e per cui irreversibile, nel momento in cui una tecnologia entra continua il suo sviluppo. E nel momento in cui una tecnologia entra nella società, pues ya es irreversibile, o sea que una vez que entra non si può parar su desarrollo. E partendo come una sola possibilità di una possibilità di scelta, quindi la libera possibilità di decidere se evitare alla propria bambina una malattia genetica e quindi seleccionandola prima, valutando l'embrione più sano. Entonces se empieza con una libre posibilidad de elección, sin más, para evitar que tu niña no nazca con enfermedades genéticas. Però è evidente che nel momento in cui questa tecnologia è possibile e viene utilizzata, chi mai si permetterebbe o come verrebbe giudicato qualcuno che nel momento in cui può scegliere se avere un figlio con disabilità o con malattie genetiche decida di non usufruire di questa possibilità. Allora, nel momento in cui queste tecnologie sono possibili e si usano nella società, pues a ver cómo se considera una persona, una mujer que elija no hacer este diagnóstico preimplantacional y no elija evitar que su hija tenga luego algunas enfermedades genéticas. Una donna che decidesse di non usufruire di queste tecnologie nel momento in cui sono possibili e sono necessarie, passerebbe prima da reazionaria e poi da criminale, nel momento in cui decidi volontariamente di far vivere alla tua figlia una vita che poteva evitare. Una mujer que diga voluntariamente no usar estas tecnologías, pues sería percibida como una reaccionaria en principio y luego como una criminal. Le tecnologie non possono essere scisse dal mondo che le ha generate. No se pueden extinguir las tecnologías del mundo que las ha generado. E le biotecnologie riproduttive che sono nate in campo zootecnico per migliorare la qualità dei nuovi nati, perché per appunto selezionare caratteristiche sfruttabili, sono arrivate alla riproduzione umana. Non si può separare le tecnologie dal mondo che le genera e le tecnologie della zootecnia hanno arrivato fino alla riproduzione umana. Con il falso discorso della salute, quindi dell'utilizzo di queste tecniche per migliorare la vita dei nuovi nati, si apre una nuova fetta di mercato. A través de la excusa de la salud para mejorar la vida de las que van a nacer, se abren más posibilidades para el mercado. Appunto, i corpi diventano scomponibili, sfruttabili. Los cuerpos se hacen descomponibles y explotables. E appunto la capacità riproduttiva viene strappata ai corpi. Se extirpa la capacità di riproduzione de los cuerpos per passare appunto nei laboratori dei scientifici. Para que se encuentre en los laboratorios científicos. E appunto il desiderio di avere un figlio diventa la scelta del miglior candidato. El deseo de tener una hija se hace la elección de la mejor candidata. Caratteristiche scelte preventivamente. Con le caratteristiche che si eligen e seleccionan con antelación. Con le biotecnologie riproduttive la natura passa dall'essere qualcosa in cui l'umano deve fare conti a una cozzaglia di funzioni biologiche controllabili e manipolabili. Pues a través de estas tecnologías reproductivas la naturaleza pasa a ser algo, cioè pasa a ser. Antes era algo con que los seres humanos tenían, algo que los seres humanos tenían que tener en cuenta y con que lidiar todos los días. Mientras que ahora pasa a ser un revoltijo de funciones biológicas que controlar y manipular como queremos, básicamente. Okay. Il mio intervento è terminato. Adesso passerei subito la parola a Silvia. Ahora habla Silvia. Hola a todos. Le mie riflessioni cercano di cogliere la complessità in cui si situano l'utero in affitto e la procreazione medicalmente assistita all'interno del sistema tecnoscientifico. Estas reflexiones quieren comprender la complejidad en que se sitúa nel vientre del alquiler y la procreación asistida dentro del paradigma y del funcionamiento del sistema tecnoscientífico. Le tecnologie di riproduzione scindono il processo del concepimento della gravidanza, isolano le funzioni rendendole separabili. La fecondazione in vitro permette fuori dal corpo la realizzazione di una parte di un processo continuo che è stato frammentato. Las tecnologías de reproducción extienden el proceso de la concepción y del embarazo. A aíslan las funciones haciéndolas separables. La fecundación in vitro permite la realización afuera del cuerpo de una parte de ese proceso continuo que ha sido fragmentado. La dimensione di esclusività femminile raggiunge il massimo grado di assoggettamento, espropriazione e risignificazione. La dimensión de exclusividad femenina llega al máximo grado de sumisión, expropiación y resignificación. Le donne costituiscono la materia prima anche per l'industria delle cellule staminali, dal momento che questa ha bisogno di tantissimi embrioni, tessuti fetali, sangue, da cordone ombelicale, feti e ociti. Gli ovuli per la ricerca delle cellule staminali derivano proprio dalla stimolazione ovarica della procreazione medicalmente assistita e gli embrioni da quelli prodotti in sovrannumero e poi non impiantati e criocongelati. Las mujeres también son la materia prima para la industria de las células madres, porque esta necesita una enorme cantidad de embriones, tejidos fetales, sangre de los cordones umbilicales, fetos y ovocitos. Los óvulos para la investigación con células madres vienen de la estimulación ovárica de la procreación asistida y los embriones de los producidos en exceso, no implantados en mujeres y luego crioconservados. Quindi le ricerche sulle staminali si fondano sulla capacità generativa delle donne, da cui traggono non solo profitti ma materiale. Il materiale umano nella scissione del processo generativo ha conseguenze che si spingono oltre al mero guadagno economico. Le investigazioni sulle cellule madri si basano nella capacità generativa delle donne, di che traen non solo provecho, sino anche materiale. El extraer material humano en la extinción del proceso generativo lleva consigo consecuencias que llegan más allá del puro provecho económico. I laboratori di ricerca parlano di gestione di materiale biologico in eccedenza, ma non si tratta di questo. Non è semplice materiale in eccedenza, è prodotto apposta per soddisfare le esigenze delle ricerche. E soprattutto in questa espropriazione si gioca el significado de ser humano. Los laboratorios de investigación hablan de gestión del material biológico en exceso, pero no se trata de esto, sino se produce expresamente para satisfacer las exigencias de las investigaciones. Y sobre todo en esta expropiación está en juego el sentido del ser humano. Es un proceso de producción encarnata, es nei corpi que se scrivono i dispositivi di potere, corpi materiali, corpi sessuati. Non è a caso, da parte del sistema, la resignificazione e la cancellazione della dimensione della procreazione e la cancellazione del soggetto donna. È un processo di produzione incarnata. È precisamente in los cuerpos che si inscriven los dispositivos de poder, cuerpos materiales y cuerpos sexuados. No es casual por parte del sistema la resignificazione e la cancellazione della dimensione della procreazione e la cancellazione del soggetto mujer. Il capitalismo, nella sua avanzata, estende i suoi territori da accaparrare a sfruttare, rendendo merce ogni vivente e mercificando gli stessi elementi vitali che diventano risorsa, acquisendo un valore economico per ciò che producono di sfruttabile. Il valore in sé è distrutto. Così ci facciamo bombardare dagli ormoni per produrre un sovrannumero di ovuli per venderli. Così ci facciamo inseminare, affittiamo l'utero. Quindi dalla manipolazione dei semi vegetali arriviamo alla manipolazione dei semi umani. Il capitalismo in suo avance ha estendido los territorios a accaparrar y explotar un momento. El capitalismo ha extendido los territorios que explotar, haciendo mercancía de cada ser vivo y mercantilizando los mismos elementos vitales que se hacen meros recursos, adquiriendo un valor económico por lo que producen de explotable. El valor de por sí ha sido destruido. Es así que nos hacemos bombardear por hormonas para producir un exceso de óvulos para luego venderlos. De la manipulación de las semillas vegetales llegamos a la manipulación de los seres humanos. Gli sviluppi dei processi tecnologici che manipolano il vivente ci pongono su un piano differente, è più profondo, perché non è più solo mercificazione, non è più solo sfruttamento, stiamo parlando di gestione, di controllo. Questi piani non scompaiono, E ci troviamo davanti a una pervasività tecnologica che penetra nelle stesse dimensioni digitali. Los desarrollos de los procesos tecnológicos que manipulan lo vivo nos ponen en un plan más profundo. Ya no se trata solo de mercantilización, de explotación, de gestión y control. Aunque todos estos planos no desaparezcan, nos encontramos también delante a una omnipresencia tecnológica total que penetra en las dimensiones vitales. Mentre modifica il vivente la materia, trasforma e crea anche una nuova realtà, una nuova percezione di noi stesse e del mondo attorno a noi. Mientras modifica lo vivo y la materia, transforma y crea también una nueva realidad, una nueva percepción de nosotras mismas y de nuestro estar en el mundo y del mundo que está a nuestro alrededor. Nello specifico, per la questione che stiamo trattando ora, la riproduzione artificiale è la risignificazione e la conseguente metamorfosi della maternità, della procreazione e quindi la metamorfosi dell'essere umano e dell'intero vivente. Específicamente, la reproducción artificial es la resignificación y la consiguiente metamorfosis de la maternidad, de la procreación y también la metamorfosis del ser humano y de todo lo vivo. Si el vivente diventa otra cosa, sia in seguito all'ingegnerizzazione, sia in seguito alla percezione che di esso abbiamo, il vivente sarà totalmente inglobato dal sistema e modificabile secondo le esigenze del sistema. Si lo vivo se vuelve otra cosa, sea después de procesos de ingenierización, sea en la percepción que tenemos de él, lo vivo será totalmente incorporado por el sistema y modificable según las exigencias del mismo sistema. En nombre de la libertad, c'è la nuova mini. En nombre de la libertad de disporre del proprio corpo e en nombre de la autodeterminación, si fanno proprie le logiche di questo sistema tecno-industriale. En el nombre de la libertad se esconden abominaciones. En el nombre de la libertad de disponer del propio cuerpo y en el nombre de la autodeterminación, hacemos nuestras las lógicas de este sistema tecnoindustrial. La mercificazione della capacità riproduttiva della donna, la compravendita di una bambina, stiamo diventando imprenditrici di noi stesse. Tutto questo si colloca perfettamente all'interno delle logiche neoliberali di questo sistema dove tutto è merce, tutto è soggetto al criterio dell'utile, tutto in vendita, tutto un ingranaggio in una mega macchina che strita dai corpi e il mondo intero. La mercantilizzazione della capacità riproduttiva della mujer, la compraventa di una niña, o sea, el hecho que nos hacemos emprendedoras de nosotras mismas, se coloca perfectamente dentro de las lógicas neoliberales de este sistema en que todo es mercancía, todo se puede cuantificar y someter al criterio de lo útil. Todo está en venta, todo es un engranaje en una mega máquina que tritura los cuerpos y el mundo entero. Cito una frase da un libro, di cui vi parlerò dopo che abbiamo seguito la lezione. Questa sinistra cyber-liberale travisa la lotta per la libertà individuale con l'apologia della libertà mercantile. Confonde uguaglianza politica e un'uniformizzazione biologica degli individui. Legge la tutela della lezione. Ahora leeré una citación que, de que hablaremos luego, o sea, de la edición de un libro que ha sido traducido en Bergamo. A ver. Esta izquierda, cyberliberal, altera la lucha por la libertad individual con la apología de la libertad mercantil. Confunde igualdad política con el hacer biológicamente uniformes los individuos. Sueña con un eugenismo liberal, la abolición del cuerpo y el útero artificial. Imagina una posthumanidad a través de la recreación tecnológica de la especie humana. Bajo la máscara de la transgresión y de la rebelión, la adhesión entusiasta al tecnocapitalismo. La sociedad patriarcal ha siempre sfruttato la capacidad reproductiva de las mujeres. La società patriarcale sempre ha esplotato la capacità riproduttiva delle donne. È in coloro che non hanno il potere di portare in grembo una figlia, ma che sono desiderosi di averne una, che si annida questo nuovo sfruttamento del corpo femminile. È in los che non tienen il potere di llevare in suo regazo una hija, però che desean tener una para sí, che annida questa esplotazione del corpo femminile. Non facciamoci abbagliare dalla retorica dell'altruismo, non può esistere una GPA etica. No nos dejemos desviar por la retórica del altruismo. No puede existir una gestación por sustitución que sea ética. Se legalizzata e generalizzata diventerà commerciale. Pensiamo al rimborso spese per la madre che ha affittato l'utero. Si se legalizará y se generalizará esta práctica, se volverá inevitablemente comercial. Es bastante con lo pensare a los reembolsos de gastos para las madres que alquilan el útero. Così come abbiamo i consumatori etici e il mercato etico, così avremo il prestito etico dell'utero, dove non sarà più solo la donna ucraina povera tratta male, magari sarà una donna occidentale tratta bene ben pagata, ma nella sostanza nulla cambia. Así como tenemos consumidores éticos y el mercado ético, tendremos también el préstamo ético del útero, donde la mujer gestante ya no será solo una mujer ucrania, pobre y explotada, sino a lo mejor una mujer occidental, tratada bien, bien pagada. Así se callan las conciencias, pero la sustancia no cambia nada. Anche nella gestazione per altri gratuita c'è un contratto, c'è una regolamentazione. E anche se ci fosse la clausola che permette alla donna di poter decidere se tenersi la bambina o di interrompere la gravidanza, come possiamo essere così ingenue di pensare che dietro a quella che si chiama scelta, nella realtà non ci sia una situazione di necessità? Come possiamo non pensare che da tali contratti e regolamentazione non si arrivi a una degenerazione e a una situazione coercitiva? También para la gestación por sustitución gratuita habrá un contrato y una reglamentación. Y aunque haya una cláusula que permita a la mujer gestante elegir si tener la niña o interrumpir el embarazo, ¿cómo podemos ser tan ingenuas y pensar que detrás de la que llaman elección en realidad no se esconda una situación de necesidad? ¿Cómo podemos no pensar que de dichos contratos y reglamentaciones no se llega a una degeneración y una situación coercitiva? Guardiamo quello che avviene realmente adesso, nelle cause che approdano nei tribunali, dove la donna che ha affittato l'utero non vuole dare la figlia alla coppia committente, si guarda il supremo interesse del minore e viene sempre data ragione alla coppia dei committenti, quindi a chi detiene il potere economico e non alla madre di quella figlia. Miramos un momento a lo che sta già passando e che passa ora. En los pleitos que llegan a los tribunales donde la mujer que ha alquilado el útero no quiere entregar su hija a la pareja comitente, para el supremo interés de la persona menor de edad, siempre se da la razón a la pareja de comitentes, o sea, a quien tiene el poder económico, y nunca a la mujer madre de esa hija. Una donna en una situación extrema de pubertà, situación tanto usada para justificar ingiustificabile per giustificare queste pratiche, oltre a coltivare patate per una vita, a sposare un vecchio ricco occidentale e affittare l'utero, queste sono le motivazioni che la sinistra italiana usa, ha un'altra strada, quella dell'orgoglio di sé e della non accettazione. Una mujer in una situazione estrema di povertà, situación que se usa demasiado para justificar lo injustificable, además de poder plantar patatas toda la vida, casarse con un viejo rico occidental y alquilar el útero, estas de las patatas, de casarse con el viejo rico occidental son motivaciones que usa la izquierda italiana, pues además de hacer eso o alquilar el útero, tiene también un otro camino, que es lo del orgullo y la dignidad de sí misma y de la no aceptación del poder. Qualcuno potrebbe obiettarmi che le mie affermazioni possono provenire da donne in una situazione privilegiata, ma in fondo alla questione c'è il considerare o no accettabili certe pratiche. Semplicemente, senza troppe giri di parole, se si contrasta la mercificazione, lo sfruttamento di ogni essere vivente, è insensato arrivare a giustificarne alcune espressioni e addirittura volerne regolamentare, semplicemente non devono esserci. Alguno podría objetar que afirmaciones como estas lleguen de mujeres que se encuentran en una posición privilegiada. Eso es cierto, pero en lo profundo de la cuestión está el considerar o no como aceptables determinadas prácticas. Simplemente, si estamos en contra de la mercantilización y la explotación de todos los seres vivos, no tiene sentido llegar a justificar algunas expresiones y manifestaciones de dicha explotación y hasta quererlas reglamentar. Simplemente, estas expresiones de explotación no tienen que existir. Tutte le nocività non si possono regolamentare, perché la regolamentazione equivale a diffonderle e a universalizzarle. Regolamentare vuol dire che il disastro è già avvenuto, è già insito nell'emissione stessa, è già insito nello sviluppo e nella diffusione della pratica. Las nocividades todas no se pueden reglamentar, porque eso equivaldría a difundirle y hacerlas universales. Reglamentar significa que ya hubo el desastre. El desastre ya se encuentra en la emisión, el desarrollo y la difusión de algunas prácticas. Come ci insegnano gli sviluppi delle tecnoscienze, gli effetti collaterali sono il normale procedere, diventano la normalità con cui convivere, così come è normale il mercanteggiare le soglie di contaminazione. Come nos enseñan los desarrollos de las tecnociencias, los efectos colaterales suceden normalmente y se vuelven la normalidad con que convivir, así como es normalidad regatear los límites de la contaminación. Nessuna regolamentazione è accettabile perché la pratica è inaccettabile. Ninguna regolamentación es aceptable porque la misma práctica es inaceptable. La linea del discorso va situata prima del discutere di una regolamentazione, così come non è possibile regolamentare il nucleare, gli OGM, la vivisezione, perché a monte riteniamo ciò inaccettabile. Hay que situar la línea del discurso antes de debatir sobre una posible reglamentación. Así como no es posible reglamentar el nuclear, los organismos modificados genéticamente, la vivisección, porque aguas arriba pensamos que todo esto sea inaceptable. Existe una dimensión indisponible, i corpi sono indisponibili, il vivente è indisponibile, la dimensione della procreazione è indisponibile. Existe una dimensión indisponible, los cuerpos son indisponibles, lo vivo es indisponible, la dimensión de la procreación es indisponible. Queste tecnologie controllano processi vitali. Non è possibile, quindi, per loro stessa costituzione una gestione né dall'alto né dal basso. Como estas tecnologías controlan procesos vitales enteros, por su misma constitución no es posible su cogestión, ni desde abajo ni desde arriba. Permettere che questi processi passino sotto qualsiasi forma equivale a rendere possibile il sempre più totale spossessamento dei nostri corpi, privati di una qualsiasi nostra gestione che non passi dalla macchina medicalizzante. Permitir que estos procesos acadan, pasen, bajo cualquier forma, significa hacer posible el siempre más total despojo de nuestros cuerpos, privados de cualquier gestión por nuestra parte que no pase por la máquina medicalizante. Existono cliniche con enormi banche di ovuli da venditrici selezionate per le loro caratteristiche. La Spagna è uno dei paesi con un approccio liberale che prevede esplicitamente un compenso per la vendita di ovuli. Cliniche di altri paesi vendono ovuli tramite cliniche spagnole e organizzano pacchetti viaggio dove la parte del processo non legale nei propri paesi avviene in Spagna in una delle 300 cliniche situate lungo la costa vicino alle mete turistiche, l'aeroporto. Existen clínicas con enormes bancos de óvulos de vendedoras seleccionadas por sus características. En España, o mejor, España es uno de los países con una postura liberal que prevé explícitamente una retribución para la venta de los óvulos. Clínicas de reproducción asistida de otros países venden los óvulos a través de clínicas españolas y organizan paquetes de viajes donde la parte del proceso que no es legal en su propio país la hacen en España. Casualmente en una de las 300 clínicas situadas cerca de la costa y de los sitios turísticos o de aeropuertos. Basta ascoltare le interviste di alcune donne che affittano l'utero, ad esempio alla Biotexcom a Kiev, per renderci conto che per queste donne è meglio se gli ovuli provengono da altre donne, al fine di allontanarsi psicologicamente dalla figlia che nascerà, per tentare di non sentirla come propria. Es bastante escuchar las entrevistas a algunas mujeres que alquilan el útero en la Biotexoma Kiev, que es una empresa, para enterarnos que para estas mujeres es mejor si los óvulos provienen de otras mujeres, con el fin de intentar alejarse psicológicamente de la niña que nacerá, para intentar no sentir esa niña como propia. Questa donna dice: noi dobbiamo prepararci psicologicamente a non provare amore materno. So che quando li vedranno mi si miglieranno, avranno gli elementi di due persone estranee e per questo non potranno mancarmi, spiega una donna in attesa, due figli avuti con ovuli di un'altra. Literalmente una mujer embarazada de dos hijos que vienen de los óvulos de otra mujer en el sitio de esta empresa dice: nosotras tenemos que prepararnos psicológicamente a no sentir amor materno. Sé que cuando los veré no me parecerán, tendrán los rasgos de dos personas no conocidas y por eso no podré echarlos de menos. Se gli ovuli provengono da un'altra donna, viene effettuata la fecondazione in vitro che presuppone la diagnosi preimpianto. Si los óvulos provienen de otra mujer, se efectúa la fecundación in vitro y el diagnóstico genético preimplantacional. Prima di impiantare gli embrioni nell'utero della futura madre, quindi che ha fatto ricorso alla PMA o della madre che ha affittato l'utero, vengono praticati test genetici su una decina di embrioni per determinare i probabili tratti e la predisposizione a svariate patologie, quindi selezionarne i migliori. Antes de implantar los embriones en el útero de la futura madre que ha recurrido a la procreación asistida o a la madre que alquila el útero, se hacen pruebas genéticas a una decena de embriones para determinar los posibles rasgos y las posibles predisposiciones a desarrollar unas cuantas patologías con el fin de seleccionar los mejores embriones. Nella scelta di questi caratteri resta sospesa una questione. Per quando saranno messi gli scarti? Chi definisce i caratteri migliori, performanti? Ciò che sarà considerato normale, deviante, non produttivo, non funzionale per il sistema verrà semplicemente eliminato all'origine. La genetica è imprescindibile della tecnologia di riproduzione artificiale. E la elezione di queste caratteristiche permanece silenziata una questione. ¿Por cuánto tiempo se admitirán desechos? ¿Quién define las características mejores, las performantes? Lo que se considerará normal, desviante, no productivo, no funcional a este sistema, simplemente será eliminado en su origen. La eugenética es imprescindible de las tecnologías de reproducción artificial. ¿Cómo pensamos de poder rimanere soggetti attivi in grado di controllare l'intero processo? La libertà di scegliere la propria figlia sarà quella di sceglierla su un catalogo, una libertà da consumatore ridotto alla scelta tra modelli preselezionati. ¿Cómo pensamos que podremos permanecer sujetos activos en grado de controlar el proceso total? La libertad de elegir la propia hija será solo la libertad de elegirla dentro de un catálogo. Una libertad de consumidora reducida a la elección entre modelos preseleccionados. La fecondazione in vitro e la diagnosi preimpianto hanno tutte le caratteristiche per diffondersi. La fecondazione in vitro e il diagnóstico preimplantacional tienen todas las características para difundirse. Lo sviluppo della genomica, per un'analisi del DNA e un'interpretazione delle sue variazioni sempre più precisa, oggi è cruciale in ogni campo della medicina. El desarrollo de la genómica para el análisis del ADN y una interpretación de sus variaciones cada vez más precisa es hoy en día fundamental en todos los ámbitos de la medicina. Una medicina que está diventando siempre più genómica, personalizzata e preventiva. Non sono necessari investimenti specifici perché è l'intero settore della genomica che sta crescendo in questa direzione. Es una medicina que se hace cada vez más genómica, personalizada y preventiva. No hacen falta inversiones específicas, es el sector entero de la genómica que se está desarrollando en esta dirección. Anche per la fecondazione in vitro e la diagnosi preimpianto, come tutte le altre tecnologie, al fine di promuoverle e creare accettazione sociale, si fa leva su problemi di salute, nello specifico quelli riguardanti la fertilità o patologie per la futura nata. Como decíamos antes, también para la fecundación in vitro y el diagnóstico preimplantacional, para promover estas tecnologías se hace presión sobre los problemas de salud, en este caso específicamente lo de fertilidad, o las patologías genéticas de la niña que podrían nacer. Ma l'analisi dei dati su chi fa concretamente ricorso alla PMA dimostra che ci sono sempre più coppie fertili e senza problemi di trasmissione di patologie genetiche che scendono a fecondazione in vitro con il solo scopo di fare ricorso a diagnosi preimpianto, unendovi la possibilità, ad esempio, di selezionare anche alcune caratteristiche come il sesso o il colore degli occhi. Proseguimos a ver e analizamos los datos que tenemos sobre quién efectivamente hace recurso a la procreación asistida. Demuestra cada vez más parejas fértiles y sin problemas de patologías genéticas eligen la fecundación in vitro, con el solo fin de poder recurrir al diagnóstico genético preimplantacional, junto con la posibilidad, por ejemplo, de seleccionar algunas características físicas como el sexo o el color de los ojos. Questo è quello che viene ora negli Stati Uniti. Qui è legale. Ma è una tendenza significativa della direzione che sta prendendo. È legale. Cioè, che esto es lo que está pasando en los Estados Unidos, donde todo eso de poder seleccionar el sexo, el color de los ojos, es legal. Pero es una tendencia significativa de la dirección que está tomando todo este proceso y esta práctica. Verrá creado, alimentado el desiderio de dar a la figlia que nascerá una heredidad genética mejor de la que podrían dar los propios sexos. Se creará y alimentará el deseo de dar a la hija que nacerá una heredad genética mejor de la que podrían dar los mismos gametos. Con la nueva tecnología de ingeniería genética, el CRISPR-Cas9, es posible practicar la corrección del genoma, de editing del genoma, en modo más económico, rápido y preciso. Esta tecnología se está desarrollando para la modificación de vegetales, animales de allevamento y de laboratorio, para las terapias génicas, con un'attenzione particolare verso il potenziale uso per creare modificazioni della linea germinale umana. Pues con la nuova tecnologia di ingegneria genetica CRISPR-Cas9 è possibile praticare la correzione del genoma, ossia l'editing, lo che si chiama editing del genoma, in una forma más economica, rapida e precisa. Ya se está usando, se está desarrollando esta tecnología para modificar vegetales, animales de cría y animales de laboratorio. Pero se está desarrollando también para las terapias génicas con una atención particular hacia un potencial uso para crear modificaciones en la línea germinal humana. Gli esperimenti vengono effettuati su embrioni scartati dalle cliniche di fecondazione assistita. Los experimentos se efectúan con embriones descartados de las clínicas de fecundación asistida. Tutto ciò che serve per la selezione umana è già presente o in fase di ulteriore affinamento o in fase di ricerca. Estrazione degli ovuli, essere in grado di fecondarli e trapiantarli, la crioconservazione degli embrioni, i software per analizzare e comparare i risultati della sequenza genetica, nuove tecnologie di ingegneria genetica e la ricerca su cellule staminali per trasformarle in gameti. Tutto lo che hace falta per la selezione umana già esiste o è in fase di perfezionamento ulteriore o in fase di investigazione. Ossia, la estrazione degli ovuli, poter fecundarli e trasplantarli, la crioconservazione degli embriones, i software per analizzare e comparare i risultati della sequenza genetica e le investigazioni con cellule madri per trasformarle in gametos. Allo stato attuale non si effettuano ancora manipolazioni genetiche al momento della diagnosi preimpianto, ma l'idea della fabbricazione della donna perfetta sottende il mito dell'uomo perfetto, dell'uomo potenziato del transumanesimo. Todavía no se efectúan manipulaciones genéticas durante la fase del diagnóstico preimplantacional, pero la idea de la fabricación de la niña perfecta sostiene el mito del hombre perfecto, o sea, del hombre potenciado del transhumanismo. El cuerpo de la donna verrà una sperimentazione biotecnologica con le conseguenze per le future generazioni. Le modificazioni genetiche, così come le modificazioni della linea germinale umana, hanno conseguenze irreversibili. Por el cuerpo de las mujeres pasará una experimentación biotecnológica con consecuencias para las generaciones futuras. Las manipulaciones genéticas, así como las modificaciones de la línea germinal, llevan consigo consecuencias irreversibles. Forse si pensa que no se arriverà mai tanto, que le manipulazioni genetiche si fermeranno alle monoculture agricole, ma se sarà possibile farlo tecnicamente, verrà fatto e non esiste comitato etico che possa impedirlo. E anche se non sarà possibile farlo, tecnicamente, nel mentre avremmo interiorizzato una precisa idea di vivente, un vivente imperfetto da modificare e migliorare. Avremmo interiorizzato l'apologia della tecnologia e del potere illimitabile della scienza, intesa come mezzo per soddisfare i propri desideri, nella fattispecie di maternità e paternità, ma anche di onnipotenza, in maniera non troppo sottesa di immortalità. A lo mejor se piensa que no llegaremos nunca tan lejos, que las manipulaciones genéticas no irán más allá de las monoculturas agrícolas. Pero, si será posible hacerlo técnicamente, se hará, y no existe ningún comitato ético que pueda impedirlo. Y aunque no será posible hacerlo técnicamente, en el mientras tendremos interiorizada una precisa idea de lo vivo, algo imperfecto que modificar y mejorar. Tendremos interiorizada la apología de la tecnología y del poder sin límites de la ciencia, concebida como medio para satisfacer nuestros deseos, específicamente, en este caso, lo de maternidad y paternidad, pero también los deseos de omnipotencia y, de forma no muy escondida, de inmortalidad. Scopriamo il senso del limite. Il limite non è un tabù, è un'evidenza, è una necessità, un'opportunità. E allora appare un'idea di libertà, non come assenza di limiti, bensì azione, decisione, consapevolezza e responsabilità. Che redescubramos il senso del limite. Il limite non è un tabù, è más algo evidente, una necessità, un'opportunità. Entonces aparece una idea de libertad no como ausencia de límites, sino como acción, elección, conciencia y responsabilidad. Non sarà un dittatore visionario, temporale eugenismo, ma progressisti democratici che stanno già aprendo la strada a una genetica liberale. Una volta che la PMA sarà estesa a tutte e tutti, si entrerà in un circuito in cui, in nome della libertà di scelta, si creerà un contesto in cui non si potrà fare altrimenti. No será un dictador visionario a imponer el eugenismo, sino progresistas demócratas que están ya abriendo el camino hacia una eugenética liberal. Una vez que la procreación asistida se extenderá a todas y todos, entraremos en un circuito en que, en nombre de la libertad de elección, se creará un contexto en que no se podrá hacer de otra forma. Emerge como la PMA no ha nulla a que ver con pratiche auto-organizzate di donne lesbiche desiderose di avere una figlia che decidono di fare ricorso allo sperma di un solidale, ma si situa e si attua all'interno di un sistema medico e tecnico. La procreazione assistita non tiene nada a che vedere con le pratiche. Lo siento. La procreazione assistita. La procreación asistida no tiene nada que ver con las prácticas autoorganizadas de mujeres lesbianas deseosas de tener una hija que eligen recurrir al esperma de un solidario, sino se sitúa y se actúa dentro de un sistema médico y técnico. Tanto più profonde e reversibili sono le conseguenze di queste tecnologie, tanto la nostra lotta dovrebbe essere radicale andando in profondità, con la consapevolezza che nel nuovo mondo che si va costruendo o decostruendo avremo più a fare con le chimere e con figlie che, anche se resteranno tali, diventeranno dello Stato e del capitale tecno-industriale che se ne rivendicherà la gestazione nel proprio grembo, il laboratorio, e successivi controllo e gestione. Stiamo consegnando nelle mani di tecnoscienziati, biotecnologi, cliniche della riproduzione la dimensione procreativa. Quanto más son profundas e irreversibles las consecuencias de estas tecnologías, tanto más nuestra lucha debería ser radical y debería llegar en profundidad, conscientes que en el nuevo mundo que están construyendo o deconstruyendo, tendremos siempre más que ver con quimeras y con hijas, que aunque no dejen de ser hijas, serán del Estado y del capital tecnoindustrial. El Estado y el capital tecnoindustrial reivindicarán su gestación dentro de su propio regazo, que es el laboratorio, y luego reivindicarán también su control y gestión. Estamos entregando la dimensión procreativa en las manos de tecnocientíficos, biotecnologías y clínicas de reproducción. ¿Cuánto dobbiamo aspettare che colossi come Bayer e Monsanto puntino su questo settore? ¿Cuánto tendremos que esperar antes que colosos como Bayer y Monsanto aposten para este sector? Le conseguenze vanno ben oltre la procreazione. Così come per gli OGM, le particelle nanotecnologiche rilasciate nell'ambiente, le conseguenze vanno oltre la pur gravissima nocività per la salute e l'ecosistema, ci troviamo davanti a una profonda trasformazione dell'intera società. Possiamo immaginare queste tecnologie come dei nodi in cui si intrecciano varie dimensioni, in cui si sta progettando e costruendo un mondo sempre più informatizzato, ingegnerizzato, nanotecnologico, artificiale, con un essere umano svuotato, omologato e domesticato. Las consecuencias llegan mucho más allá que la procreación, así como para los organismos modificados o las partículas nanotecnológicas libradas en el ambiente, las consecuencias llegan más allá que la gravísima nocividad para la salud y el ecosistema. Nos encontramos delante de una profunda transformación de toda la sociedad. Podemos imaginar estas tecnologías como nudos en que se entrelazan distintas dimensiones, en que se está planeando y construyendo un mundo siempre más informatizado ingenierizado, nanotecnológico y artificial, con un ser humano vaciado, homologado y domesticado. Sembra che il potere abbia ben compreso la posta in gioco e non ha nessuna intenzione di rinunciarvi. Sta a noi adesso comprenderla e opporci con forza a questo processo che vogliono farci credere ineluttabile, con la consapevolezza che se non lottiamo ora e subito un domani sarà troppo tardi. Parece che il potere abbia comprendido bien la apuesta e che non tenga ninguna intenzione di rinunciare. Es nuestro compito comprenderla y oponernos con fuerza a este proceso que intentan hacernos creer que sea ineluctable, conscientes que si no luchamos ya ahora, mañana será demasiado tarde. Come collettivo resistente al mondo, nel nostro percorso di analisi critica e posizione delle tecnoscienze, non potevamo non interessarci anche alla procreazione artificiale dell'umano. Como colectivo resistencia al nanomundo, que sería colectivo resistencia al nanomundo, en la trayectoria de análisis crítica y oposición a las tecnociencias, también nos hemos interesado para la procreación artificial del ser humano. Hemos tradotto e seguito l'edizione italiana di questo libro, La riproduzione artificiale del humano, di Alessio Cordero. Y hemos traducido el libro, hemos traducido en italiano el libro francés, que sería la reproducción artificial del ser humano, o sea, la reproducción artificial del ser humano, de Alexis Escudero. Come Assemblea Ortica a Bergamo, il 25 novembre, non a caso, nella giornata internazionale contro la violenza sulla donna, abbiamo realizzato la prima iniziativa in Italia contro la GPL e la PMA, un presidio con un volantinaggio, una mostra e seguire un dibattito. Un'iniziativa immersa in un silenzio assordante del contesto italiano che grava sullo sviluppo di un reale dibattito e di una critica scevra da luoghi comuni, pregiudizi e chiusure ideologiche. Come altra assemblea, Assemblea Le Ortigue, Ortigas, a Bergamo, il 25 di novembre, ossia il Dia Internazionale contro la Violenza alle Mujeres, hemos realizado la primera iniciativa en Italia en contra de la gestación por sustitución y la procreación asistida. O sea, una concentración en que hemos repartido un texto, una exposición y luego un debate. Ha sido una iniciativa sumergida en el silencio ensordecedor del contexto italiano, que pesa en el desarrollo de un debate real y de una crítica sin clichés, prejuicios y cierres ideológicos. Como le han gestado en Ártica. Como Archeosperma anarchistas. Un gruppo di donne a Bergamo, all'occasione della giornata del Gay Pride, abbiamo realizzato un'altra iniziativa contro l'utero in affitto e la procreazione medicalmente assistita. Este gruppo è un gruppo di mujeres che in Bergamo, il dia del Gay Pride, ha realizzato una iniziativa con un volantinaggio, una ripartizione di un testo. Più ovuli e dei cartelli con scritto affitto all'utero, vendo ovuli a sconti al supermercato del bebè dietro una mercificazione dei corpi. Pues han repartido este texto con este dibujo, que son dos mujeres que hablan de cómo venden los óvulos y luego teniendo carteles con scritto vendemos óvulos y affitto all'utero, alquilo all'utero. E dietro i corpi sono indisponibili. Y detrás llevaban un altro cartel con scritto los cuerpos son indisponibles. Grazie a questa iniziativa, Gay Pride c'è stato l'unico messaggio contro questa pratica. Gracias a esta iniciativa, en el Gay Pride de Bergamo hubo por lo menos un mensaje en contra de la procreación asistida, que es algo de que no hubiesen hablado nunca. Il 22, 23, 24 giugno in Italia ci sarà la prima campeggia femminista contro la riproduzione artificiale e il sistema terreno necessario. Qui c'è il programma in spagnolo e spero che voi compagne veniate a questa iniziativa questi tre giorni. Pues este verano, il 22, 23 e 24 de junio in Italia, sarà la prima campamenta femminista contro la riproduzione artificiale e il sistema che la hace necessaria. Es un campamento no mixto, aquí hay todo el programa y esperamos que las mujeres que estáis aquí pues queráis venir. Aquí hay el programa en castellano, se ha traducido. Gracias. Gracias.